12 e 30 minuti di martedì 8 marzo 2011. Su questo treno vecchio come in silenzio, come il dolore, e ascolto le grida. Finalmente in diretta con un quarto d'ora abbondante di ritardo in uno studio particolarmente affollato questa mattina. Tra le mani la speranza di non morire, ma è così semplice, fa troppa paura questo bisogno di respirare, perché tu... Sono infatti con noi ospiti un'altra voce della redazione della radio che di solito sentite darvi il buongiorno il giovedì mattina. Non ti vedo più, non ho più figlio in questo dolore. E Nicola del Circolo Ampi Renato Biaggetti, il circolo che sappiamo avere sede presso il Lo Agrobax ex cinodromo. Si perderà nel cielo con il mio destino, con i miei sogni, con ogni ricordo, con il mio viso, con il tuo sorriso. Una presenza motivata dal tema, praticamente dal tema monografico che oggi coinvolgerà, che oggi insomma ci porterà in questa trasmissione di Maldestra, cioè l'avvicinarsi del congresso nazionale dell'Ampi e una serie di tematiche che in realtà ormai è quasi un anno che vanno avanti in un dibattito interno all'associazione Partigiani. Perché io non sono nulla senza voi. E allora andiamo subito ad iniziare, nonostante lo studio affollato, iniziamo però con una voce al telefono. Infatti dovremmo avere Saverio Ferrari, l'anima dell'Osservatorio Democratico di Milano. Intanto verifichiamo se ci senti, ci sei? Ci sono, buona giornata. Buona giornata anche a te. Allora, come dicevamo poc'anzi, la puntata di oggi è una puntata monografica sull'Ampi in vista del, appunto, del quindicesimo congresso che si terrà tra qualche settimana. Ne parliamo con te, visto che poi questo congresso sarà anche abbastanza dirimente dal momento che dovrebbe andare a sancire questo passaggio da un'associazione combattentistica di reduci a qualcos'altro, e qualcos'altro, diciamo, il dibattito è aperto su che cosa appunto diventerà l'Ampi. Noi lo chiediamo a te perché parte che ne hai scritto in questi giorni, e poi sei anche vicino a quell'esperienza che è l'esperienza milanese di partigiani in ogni quartiere, cresciuta, come raccontavi anche te qualche ieri fuori onda, fuori dall'Ampi, ma che poi in qualche modo si è intersecata in questo percorso e ha vissuto anche quello che è il dibattito che animerà il congresso, giusto? Sì, giusto, nel senso che almeno qui in Lombardia, ma mi risulta in diverse altre parti d'Italia, i congressi provinciali, tra i nodi che hanno affrontato, c'è questo, e cioè il rapporto con le nuove realtà giovanili antifasciste organizzate sul territorio, che non è un fenomeno milanese, un fenomeno, a dir la verità, nazionale. Cioè fuori dall'Ampi in questi anni sono cresciute delle reti antifasciste, e il problema che si pone nel dibattito all'interno dei partigiani italiani, dell'associazione dei partigiani italiani, è anche perché e come mai fuori dall'Ampi, perché in realtà dentro a questo dibattito emergono resistenze, emergono alcune chiusure, emergono diffidenze, e questo sarà, credo, se non il tema centrale, uno dei temi centrali dello stesso congresso nazionale, perché nelle diverse federazioni, ancor prima nelle sezioni, per la prima volta nella storia di questa associazione sono stati presentati emendamenti, ordini del giorno e in diverse circostanze anche approvati, per cui questo arriverà al congresso nazionale, dove, come già dicevi tu, si segnerà un passaggio epocale, cioè per la prima volta gli organismi dirigenti saranno composti a maggioranza da antifascisti e non da ex partigiani e combattenti. Oggi su, credo, ormai più di 120.000 iscritti, l'ANPI punta a 150.000 iscritti entro l'anno, c'è una statistica che dice che solo tra il 5 e il 7% sono coloro che vengono dalle file della Resistenza, e questo ha mutato radicalmente l'associazione dal 2006 ad oggi. Io vorrei ricordare che il precedente congresso si svolse nel 2006 a Chianciano, si fece la modifica statutaria per consentire l'ingresso degli antifascisti nei gruppi dirigenti e solo parzialmente poi fu attuata e fu dato corso a questa modifica, ma era un ANPI ancora collocata in una realtà diversa, e lei stessa era davvero, come dire, molto diversa da quella che è venuta negli ultimi 5 anni. Io vorrei ricordare che nel 2006 non c'erano ancora alcuni partiti, non c'era il PD, c'era l'IDS, c'era la Margherita, c'era una sinistra molto più forte che peraltro a torto o a ragione si apprestava a entrare nel governo Prodi. E quindi questo congresso è un congresso che segna uno stravolgimento rispetto al 2006, per le ragioni che dicevo prima, ma anche per ragioni politiche. Si fanno i conti con un'associazione che è cresciuta e cambiata, e come tutte le associazioni di una certa dimensione, oggetto di militanza da parte anche di chi non riesce più a proseguirla nei vecchi partiti di sinistra, quindi affida all'ANPI, ma anche per certi aspetti, se guardate bene, al sindacato o addirittura all'ARCI, compiti sempre più politici e meno associativi, perché c'è una mancanza di strumenti per intervenire nel presente, e tra gli strumenti che servono ci sono anche, servirebbero anche gli strumenti per una battaglia antifascista di cui c'è una grande urgenza. Posso farti una domanda anche certo. Di rispetto a quello che scrivevi? Perché insomma vediamo in qualche modo questa ANPI anche nelle esperienze che poi andremo a raccontare, che abbiamo vissuto direttamente come antifascisti di questa città, effettivamente cambiata, mutata, in alcuni casi anche con un ruolo anche coraggioso in questi anni. A fronte di questa complessità ci troviamo però magari anche per chi l'ha letto, con un documento congressuale che riduce moltissimo questa complessità, a volte taglia proprio, prova anche esplicitamente a tagliare fuori anche delle esperienze che hanno visto una contaminazione più ampia con chi l'antifascismo poi lo pratica quotidianamente o appunto è terreno anche di confronto appunto militante tutti quanti i giorni, e l'impressione che provi effettivamente a ricondurre l'ANPI in quell'alveo di strumenti di prossimità del PD e la CGL come può essere l'ARCI, questo anche nelle battaglie dell'individuo, nel confermare che l'ANPI in qualche modo è un'istituzione e una serie di passaggi simili, e mi pare che questo qua si sta anche riscontrando in parte nei dibattiti congressuali in cui c'è stata anche molta attenzione da parte di alcuni partiti del centro-sinistra e anche del sindacato a essere ben presenti in queste discussioni congressuali. Sì, questo è vero, nel senso che l'ANPI per tante ragioni rischia, e questo è stato anche un tentativo fatto negli ultimi anni, di diventare un'associazione collaterale, per certi aspetti, come dicevi tu, della CGL e del PD. E io segno però forti differenze tra città e città, tra ciò che fa la CGL dal punto di vista della battaglia antifascista e il PD. Io vivo una realtà dove a Milano la CGL promuove iniziative antifasciste a cui il PD non è che sia, come dire, molto intenzionato a starci, e quindi ci sono anche differenze da quel punto di vista lì. Però accade anche che lungo il percorso congressuale, rispetto a un documento che è un documento per certi versi improvvisato e anche brutto, vorrei sottolineare che non c'è una parola in questo senso. Un documento che ha quasi toni d'accusa a volte. Ma neanche, cioè nel senso che è scombinato, secondo me. Dopo anni in cui si è fatta la battaglia contro i pericoli del revisionismo storico, non c'è una parola. Voglio dire, quindi è scombinato addirittura da questo punto di vista. Si vede il pericolo della violenza nei giovani dei centri sociali che contestano le autorità o, come dire, l'ANPI stesso durante le celebrazioni del 25 aprile. Si fa un giuramento in favore della necessità che le istituzioni comunque rappresentate siano all'interno delle manifestazioni in ricordo dei caduti della lotta di liberazione. Però questo documento è stato modificato da federazioni importanti rispetto ad alcuni punti. Qui in Lombardia la gran parte delle federazioni, ad esempio, ha fatto emendamenti approvati che sono stati inseriti nei documenti finali in favore della chiusura dei centri di identificazione ed espulsione, per il ritiro delle truppe italiane dall'Afghanistan, per la possibilità di dare il voto ai cittadini stranieri e la tessera dell'ANPI, per correggere fortemente una parte del documento che senza aggettivazioni si pronunciava in favore del federalismo, definendo il federalismo in realtà in questi emendamenti approvati come a Milano un progetto strisciante di secessione. Per cui io non credo che il congresso che si terrà a Torino a fine mese assumerà tutte queste cose e altre ancora di cui ci sarebbe la necessità, però c'è un fatto, cioè che questo organismo così, come dire, composito manifesta sollecitazioni che vengono dal basso e ha anche alcuni punti di arrivo che non sarebbero disprezzabili. Il fatto è, e concludo da questo punto di vista, secondo me, di sapere che l'antifascismo passa attraverso l'ANPI, ma non solo. Cioè il problema non è quello di pensare che sia l'unico strumento utilizzabile per la battaglia antifascista, è uno degli strumenti. Dove è possibile attivarlo lo si attiva, dove questo richiederà più tempi e dove questo rischia di essere appunto in realtà un'associazione collaterale del PD o di altre cose, bisognerà cercare di praticare la strada al di fuori dell'ANPI. Io credo che bisogna essere molto pragmatici da questo punto di vista, anche perché è cambiato questa associazione per le cose che dicevo prima, ha una grande autorevolezza, ma i combattenti autorevoli presenti e vivi solo qualche anno fa non ci sono più, quindi si sta trasformando in un'associazione come tante altre. Per quanto la sua ragione sociale sia l'antifascismo e la difesa della Costituzione, non ci sono più i protagonisti della battaglia della resistenza, ci sono quelli che hanno altre età e vengono da altre generazioni, per cui questo determina il fatto, secondo me, che uno tranquillamente possa pensare anche di praticare l'antifascismo, anzi di praticarlo quando questo è necessario, anche non passando attraverso questa associazione. Sì, io un'ultima domanda ti volevo fare anche rispetto, insomma, al documento congressuale, ma anche, insomma, alla ragione sociale di questa associazione, nel senso, ragione sociale, un documento che non parla mai di, sostanzialmente, di memoria, di revisionismo, di neofascismo, è sostanzialmente tutta una lettura sull'anomalia berlusconiana in termini di difesa della Costituzione. Cioè, sembra un po' che questo documento mastichi appunto un problema di antipolitica o di allontanamento dai partiti, di cui anche l'ANPI è una toppa che viene messa, quando invece proprio su delle questioni specifiche inerenti ad esempio alla memoria, all'antifascismo, alla lettura delle destre in Italia, non c'è sostanzialmente nulla, nulla di tutto ciò. A questo proposito, invece, rispetto anche alla memoria e a che cosa, a chi sono gli antifascisti dei nostri giorni e dell'altro ieri, una cosa, ad esempio, significativa da aprire magari sarebbe quella proprio dei nuovi partigiani, questione che l'ANPI ha sempre avuto difficoltà a affrontare, non volendo riconoscere mai nella sinistra rivoluzionaria, l'antifascismo militante, la prosecuzione, in qualche modo ideale anche, dell'antifascismo della resistenza. Ma su questo qua, insomma, poi delle cose significative nelle città o dal basso accadono, come il fatto che alcuni circoli ANPI hanno aderito formalmente e anche costruito un manifesto e una propria adesione e ragionamento quest'anno al corteo per la ricorrenza dell'assassinio di Valerio Verbano. sì, questo accade a Roma, dove c'è un'associazione che si è sviluppata negli ultimissimi tempi aprendo ai giovani, anche perché ha avuto un gruppo dirigente disponibile a farlo. Io vivo in una realtà, esempio appunto la città di Milano, dove l'Ampi conta più di 8.000 iscritti, che ha una tradizione che viene da molto lontano e dove il gruppo dirigente non ha nessuna intenzione, neanche dal punto di vista formale, di fare alcune concessioni. A Milano, ad esempio, il ricordo dei compagni caduti negli anni 70 viene svolto autonomamente da altre associazioni, perché non vi è la disponibilità culturale e politica a riconoscere che quei caduti sono caduti di nuova resistenza. Il termine stesso viene rifiutato, nuova resistenza, come il termine partigiani, che viene appunto utilizzato dalla rete partigiani in ogni quartiere. Per cui qui, dove magari ci sono altre aperture del tipo che sottolineavo prima, vi sono chiusure su questioni sostanziali. Milano è la città capitale europea, per molti versi, dei raduni dei neofascisti, ne sono avvenuti anche alcuni al centro delle attenzioni dei media e altri che non sono stati neanche raccontati ai giornali, eppure si sono svolti, e c'è una sottovalutazione di questo fatto, per cui ripeto, secondo me siamo in una fase di passaggio rispetto alla vita di questa associazione. Bisogna non farsi delle grandi illusioni e ritenere che là dove vi siano delle sensibilità, queste vadano colte da parte di chi si mobilita per una battaglia antifascista, e da dove vi sono delle resistenze si passa oltre, cioè non credo che vi sia una sacralità a questo punto, cerco di dire questo, cioè bisogna fare la battaglia antifascista con gli strumenti che si possono utilizzare e quindi attendiamo questo finale di congresso. Io non mi faccio soverchie illusioni, ci saranno alcuni punti di avanzamento e si manifesteranno forti resistenze. Si tenga conto che c'è anche un'incertezza rispetto al gruppo dirigente nazionale dell'ANPI, perché gli ultimi 5 anni, addirittura l'ultimo anno, hanno determinato rispetto all'età dei protagonisti seri problemi riguardo a un futuro del gruppo dirigente, per cui ci sarà anche da vedere quale sarà il futuro gruppo dirigente dell'ANPI, per vedere come queste cose che noi stiamo oggi discutendo si tradurranno meno in una impostazione politica e culturale. Va bene Saverio, noi ti ringraziamo per quella che è stata decisamente una corposa introduzione, poi continuiamo adesso anche il dibattito in studio e ci diamo appuntamento prossimamente, anche magari dopo il congresso stesso. Va bene, grazie a voi intanto. Grazie, ciao. Arrivederci. Questo brusio in realtà era l'inizio di Antagonista a Vita. L'ultimo pezzo di Drowning Dog, Malatesta, Acero Moretti, Lele Prox, immagino nel progetto Microplatform. Maledetto il suono della sveglia, è una veglia, dannato un altro giorno sulla terra, bombarda la tensione dei miei nervi, il mondo è popolato da servi e noi gli invitti con l'odio per i ricchi, che siamo pazzi e messo agli atti, l'orgoglio qui si vede nei fatti, per questo sappi, non è mai tardi, sai, per uscire dal gregge, perché se il mondo esplode voglio il ruolo delle schegge. La vita è una galera, e Dio pecora nera, né essere eremita, né unirmi a questa schiera di assassini, di sbirri e di padrini, rivolta popolare fomentata dai cortili. Contro le regole della partita, la scelta è fatta, antagonista vita, antagonista vita. Che vamo a fare? Hai che luciare? Hai che luciare? Feeling like you're getting ripped off every day. Said you gotta watch the hustle in no critical way. When it's big business, bestiality, baby. Eat you up and roll you over. Hey, slap your mother and eat your brother. All in the name of war, power, profit. They say it's so natural. You can't stop it, but yes, we can. It's like just say no. Said you change what you know, popular votes from below. It don't feel good and it don't feel right. Got you staying up late night, putting stress in your life. As to senior thieves like them, I can't be. So I made a decision, we can make a choice. Antagonista vita, antagonista vita life. Give me more. What Obama and the bankers and the generals and the IMF and the CIA and CNN and BBC fear is ordinary people coming together and acting together. Anger to action, anger to action, to action. Anger to action, anger to action, to action. Anger to action, anger to action, to action. Action to action to action. Torniamo in diretta, dicevamo studio, siamo in compagnia quest'oggi, dopo l'introduzione di Saverio che abbiamo visto insomma avere una lettura insomma, piuttosto critica di quello che presumibilmente uscirà fuori dal congresso o comunque anche la sola stessa impostazione del congresso con cui viene convocato il congresso, ricordiamolo, tutto sommato è un anno che si discute di questo congresso nazionale, un anno che ricordiamolo è stato comunque... è iniziato con le polemiche succedute al 20, che sono seguite al 25 aprile, quando ci furono aspre contestazioni, in particolare a Roma, a causa della presenza della Polverini, che in realtà non è nemmeno una grande novità questa, diciamo, apertura alle istituzioni per quanto schierate a destra da parte dell'Associazione Nazionale Partigiani. Eppure il panorama romano è costellato di esperienze che potremmo definire veramente dal basso, nel senso provengono da quel tessuto anche di antifascisti vicini agli spazi sociali, vicini ad aggregazioni di antifascisti che praticano anche un antifascismo quotidiano e militante, e che tutto sommato però si trova in una posizione dialogica con quello che è la, diciamo, poi la struttura nazionale. Ne parliamo con Nicola del circolo Renato Biagetti, e appunto per farci un po' una postilla, un commento a quanto detto da Saverio e anche un po' raccontarci quella che è la vostra esperienza. Sì, grazie. Beh, naturalmente su un'impostazione di fondo da parte di Ferrari non posso che essere d'accordo. Un attimo solo perché abbiamo un piccolo problema. Pronto? Eccomi. Eccoci, eccoci. Benissimo, allora scusate. Allora, naturalmente, come cercavo di dire prima, non posso che essere di fondo d'accordo con quanto espresso da Ferrari. Naturalmente, essendo membro di questa associazione, non sono totalmente d'accordo sul suo aspetto critico, anche, ma immagino che chi vede dall'esterno il lavoro dell'ANPI, soprattutto negli ultimi due anni o dalla svolta del congresso del 2006, capisco che comunque non abbia chiare tutte le varie dinamiche. Partendo dal documento nazionale, naturalmente un documento nazionale è una bozza. Questa bozza qui viene arricchita e resa viva dai diversi emendamenti che vengono discussi, che sono stati discussi prima dai diversi circoli e poi in fase di congresso provinciale e regionale. Nel nostro caso molte delle critiche, se vogliamo definirle così, alla prima bozza del documento sono state integrate. Naturalmente non si parlava del nuovo, non si parlava bene approfonditamente del nuovo fascismo, non c'erano secondo noi i necessari riferimenti al revisionismo o comunque alle tentate svolte revisionistiche degli ultimi anni, anche se non dobbiamo ricordare che la legge sull'equiparazione tra repubblichini e partigiani non è passata grazie all'intervento attivo e alla campagna dell'ANPI, che fu anche una campagna mediatica importante. Sul rapporto con le nuove realtà, quello che posso dire io è quello di portare l'esempio del circolo che rappresento. In primis perché il circolo Renato Biagetti è un circolo che nasce dentro un centro sociale, dentro uno spazio occupato, è diventato il simbolo di una squadra di rugby composta da ragazzi e ragazze che hanno diverse sensibilità, perché noi accogliamo da vetero comunisti a ragazzi che la domenica vanno agli scout prima di venire a giocare con noi, ma che sono tutti quanti accomunati da un sano sentimento di antifascismo. E questo qui è quello che è l'AMPI che noi auspichiamo, è un AMPI che sia non tanto un terreno di scontro o un terreno di affermazione di determinate politiche partitiche o del forte associazionismo della sinistra italiana, ma che sia un campo in cui tutti quanti siamo accomunati. Per cui il nostro AMPI e l'AMPI in cui abbiamo lavorato fino adesso è un AMPI che va dal PD fino ai centri sociali e stiamo cercando in tutti i modi che rimanga tale. Naturalmente capisco la situazione milanese che ha efficacemente documentato Ferrari. Naturalmente nei rapporti con le nuove realtà sicuramente la situazione romana è diversa, nel senso che il circolo Renato Biagetti è forse l'unico circolo in Italia che è stato dedicato a quello che l'AMPI ha definito un martire antifascista, cioè un ragazzo morto mezzo secolo dopo la liberazione dell'Italia dall'occupazione nazifascista. È ucciso neanche in una degenerazione di uno scontro politico durante un corteo o durante una rissa organizzata o altre barbarie del genere, ma è stato ucciso semplicemente perché era una dancehall, semplicemente perché era andato a ballare in spiaggia con dei suoi amici. E quando a sferrare dei colpi sono un 19enne e un minorenne che non hanno nessun legame esplicito con un movimento neofascista, allora io mi chiedo, questi ragazzi da dove vengono? E immagino che vengano tutto quest'odio per arrivare a uccidere qualcuno, è quell'odio che è stato fomentato negli anni da certe politiche istituzionali che hanno appoggiato, sono state morbide, anche partendo dal PD stesso, con le organizzazioni neofasciste, hanno concesso spazi, hanno concesso finanziamenti che hanno reso possibile la loro vita. Guarda, cerco di un attimo anche di tornare un po' alla vostra esperienza. A parte, giustamente ricordavi il fatto che l'intitolare il circolo Renato Biagetti è evidente che si pone già di per sé su un solco che è, diciamo, parallelo più che sovrapposto a quello dell'AMPI come l'abbiamo conosciuta finora. Comunque vuol dire in qualche maniera avvicinarsi a un universo giovanile che non è detto abbia in maniera così scontata in testa il riferimento alla resistenza, alla lotta di liberazione. Vuol dire però ovviamente essere particolarmente calati nella realtà della nostra città, vuol dire aggregare ragazzi che poi in qualche maniera si pongono in una situazione di confronto con la cultura, con la fascistizzazione della cultura, con la fascistizzazione dei comportamenti sociali, che sono processi che negli ultimi anni nella nostra città hanno avuto sicuramente una particolare recrudescenza. Però non siete da soli, in qualche maniera siete appunto un pezzo poi di un mosaico che a livello cittadino può contare almeno altri tre circoli che possono in qualche maniera, due o tre circoli. Ma una decina di circoli. Che comunque si collocano nel solco comunque di una, diciamo, della scelta di allargare l'AMPI anche agli attivi, insomma a chi non ha svolto resistenza direttamente. Sì, sono una decina di circoli che comunque sono stati accomunati dall'aver presentato in sede di congresso regionale di fatto gli stessi emendamenti, cioè questo qui vuol dire che che tutti i circoli sono riusciti a mettere l'accento o a integrare le stesse parti del documento, quindi di conseguenza vuol dire che tutti quanti sentono le stesse necessità e penso che sia già una grande vittoria. Tra l'altro anche lì facciamo riferimento a, ora appunto magari purtroppo non abbiamo modo adesso di averli in studio o al telefono, ovviamente pensiamo che questo almeno fino al congresso sarà anche un po' un punto aperto che potremo anche riaggiornare mano a mano che ogni martedì fino a quando appunto poi non si terrà il congresso per penso dare voce a tutte queste realtà. Però stiamo parlando appunto di esperienze che bene o male provengono anche da questo bacino culturale, quindi non so se puoi raccontarci anche quelli sono stati i vostri emendamenti, quali sono state le vostre posizioni a quel congresso. Sì, naturalmente un documento politico nazionale molto complesso, era una trentina di emendamenti comunque, che non starò naturalmente qui a elencare tutti. Posso quelli che secondo me sono più importanti, è stata in prima di tutto sulla difesa dei principi costituzionali, è stato il provinciale, il regionale romano dell'AMPI, regionale laziale dell'AMPI, scusate, ha chiesto di integrare sul revisionismo, quindi integrare delle parti in cui si cerca comunque di contrastare in tutti i modi il revisionismo, chiedere la laicità dello Stato. E soprattutto l'inserimento dell'articolo, è stato rimarcato che l'articolo 54 della nostra Costituzione chiede di svolgere le funzioni pubbliche con dignità e onore. E in questo 8 marzo mi sembra anche doveroso fare un appunto al riguardo. È stata richiesta l'abolizione del segreto di Stato sulle stragi. È stato richiesto, per quanto riguarda il razzismo, l'abolizione del reato di clandestinità e la chiusura dei CIE. E soprattutto è stata richiesta la messa al bando delle organizzazioni neofasciste. Vi sono poi naturalmente un documento nazionale, un documento che cerca di rappresentare tutti gli aspetti della società complessa Italia, quindi ci sono anche sull'unità nazionale, sulla scuola, sulla sicurezza, sul lavoro, informazione. È stato chiesto inoltre di inserire un emendamento sull'introduzione del reato di tortura, visto anche i morti, quindi la nostra è veramente un'AMPI che comunque sta nel quotidiano, perché i morti purtroppo per tortura dentro le carceri di Stato o per violenza nelle caserme dei carabinieri sono all'ordine del giorno. Naturalmente riconosco adesso in questo caso a Ferrari che vi è una certa tendenza dell'AMPI nazionale di mettere fuori i centri sociali, infatti quando in un emendamento l'AMPI chiede di essere portavoce di tutte le associazioni, comunque partiti eccetera eccetera, si è dimenticato i centri sociali, ne abbiamo chiesto di aggiungerlo, ma penso che non ci siano a riguardo problemi. Un'ultima e importante emendamento è stato quello sulla giornata nazionale delle foibe. L'AMPI ha richiesto di inserire ha chiesto di acquisire i documenti della commissione italo-slovena per fare chiarezza su quello che è la giornata del ricordo delle foibe questo 10 febbraio, per cercare comunque di ridimensionare quello che per molti versi è una vicenda e non è un dramma. Va bene, tra l'altro non so, abbiamo un ultimo intervento di chiusura forse? Volevi? Sì, io quello che volevo provare a sottolineare anche al dibattito, anche le tantissime persone, compagni, ma anche appunto Saverio, quando fotografa il fatto che molte persone si avvicinano all'AMPI in un clima di disillusione verso appunto le forme partito, sindacato, eccetera, è vero, tu raccontai l'esperienza di un circolo appunto in qualche modo anche particolare rispetto ad altri che esistono a Roma, che sicuramente molto più vitale, appunto tutta la serie di circoli che te raccontavi e rappresentano un po' la novità sostanziale di questi anni di AMPI. Però quello che rischia di diventare l'AMPI anche in questa discussione congressuale è questo qua, insomma, lo diciamo noi anche come interesse diretto di persone impegnate nelle battaglie sull'antifascismo, un po' un minestrone che deve rispondere un po' a qualsiasi problema, un po' a qualsiasi cosa accade in questo paese. Molto più utile sarebbe, come è stato poi il caso romano, e questo ha dato anche un terreno molto produttivo, che l'AMPI diventa terreno, continui a essere, come ad esempio nel caso romano, e si allarghi questa pratica, terreno d'incontro su delle tematiche, a cominciare chiaramente dall'antifascismo, tra soggetti anche diversi, in grado, dentro appunto i circoli dell'AMPI, dentro anche il dibattito cittadino che ruota attorno all'AMPI, di aprire una dialettica anche produttiva, che ha visto appunto, a cominciare proprio tra l'altro dalla vicenda di Renato e dallo stillicidio di aggressioni che abbiamo vissuto in questa città, un rapporto effettivamente produttivo, perché riusciva chiaramente a portare l'AMPI su un terreno diciamo un po' più avanzato rispetto a quello che succede nella realtà del nostro paese, rispetto alla sola memoria storica, ma anche a far diventare l'AMPI appunto terreno di incontro, di dibattito anche tra diversi. E questo penso che sia da mettere a valore anche in un'ipotesi di in un'ipotesi appunto di lavoro di tante persone dentro, dentro l'AMPI. Va bene, penso che per oggi, tra l'altro sforando di un po' di minuti, dovremmo andare a chiudere. Ovviamente ripeto l'invito poi anche agli altri circoli, a altri membri ovviamente dell'AMPI a partecipare a questo dibattito. Ovviamente siamo disponibili a ospitare anche nelle prossime settimane, e a questo punto possiamo andare a chiudere questa trasmissione con ricordando che si avvicina il 16 marzo, anche quest'anno giornate di ricordo per Davide Dax Cesare. Avete sentito gli spottini, li rimanderemo in coda di trasmissione, e ricordiamo anche il blog dell'AMPI, quale sarebbe il dacci le coordinate. Allora, sezione biogetti blogspot.com, e come prossimi appuntamenti che potrete leggere sul sito, molto probabilmente il 2 aprile faremo la festa del tesseramento 2011, sempre presso il cinodromo. Perfetto, quindi ovviamente questi sono appuntamenti. Ricordiamo anche le coordinate web di questa radio, www.ondarossa.info, e del blog maldestra.noblogs.org. Con questo ci lasciamo al GR dell'Una. A presto. Evidentemente un errore nella playlist. Qualche buon tempone aveva inserito l'inno birmano nella nostra playlist. Mandiamo quindi invece un pezzo di chiusura sicuramente più orecchiabile, e successivamente gli spottini per le giornate, ricordo, Davide Dax Cesare.